L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Quello che ama recuperare e riciclare per non consumare le preziose materie prime del nostro pianeta in modo dissennato e anche per risparmiare, perché no? Anche questa settimana, insomma, parliamo di rifiuti, del resto questo è un argomento inesauribile. Questa volta la prendiamo però in senso più generale, con il rapporto annuale L'Italia del riciclo, promosso da Fise Unire, che è l'associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti, e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, presentato questo rapporto giovedì scorso a Roma. Un rapporto che tratteggia per il 2010 un settore in crescita, più 40% rispetto al precedente anno, ma con fosche nubi all'orizzonte dovute alla crisi economica che nel 2011 non ci ha risparmiati e che avrà effetti che conosceremo nel 2012, almeno per quello che riguarda i rifiuti. Detto in breve, meno si consuma, meno c'è da riciclare e per le aziende meno c'è da produrre. Ma è anche un rapporto che indica miglioramenti generali nel settore del riciclo e in quello che lo alimenta, cioè il recupero dei rifiuti, con margini non indifferenti di miglioramento comunque. A questo punto però diamo la parola agli esperti. Gli estensori del rapporto, come dicevamo, sono due. Cominciamo da Corrado Scapino, che è il presidente di Unire. Il rapporto sostanzialmente segnala per l'anno passato un recupero importantissimo rispetto al 2009, che era stato l'anno della crisi. I primi dati, che ovviamente sono parziali, di quest'anno, indicano invece alcune preoccupazioni, nel senso che evidentemente la crisi economica fa sentire i suoi effetti. Ecco, l'andamento del riciclo è molto, molto legato all'andamento industriale ed economico dei consumi. In quale modo? Evidentemente quando c'è una crisi dei consumi ci sono meno merci prodotte, meno imballaggi, e a seconda delle filiere c'è un minore emissione nel consumo, e dall'altra parte a volte c'è anche una minor domanda da parte delle materie prime. C'è la tendenza, quando c'è la crisi ad esempio, a stoccare, per cui molte aziende magari, come dire, prima di acquistare accumulano, poi aspettano un momento migliore. Cioè, diciamo così, che è una sinusoide, ecco, sostanzialmente alti e bassi che accompagnano le crisi. Gli indici dei sei principali flussi di materiali avviati a riciclo sono tutti tornati a crescere nel 2010. Ottimo sviluppo per i rottami ferrosi, più 67,9%, e per l'acciaio. Buona ripresa per l'alluminio, più 18%, la carta, più 9,3%, il legno, più 15,4%, il vetro, più 7,5%. Modesta la flessione per il solo comparto della plastica, meno 0,7%, che già evidentemente ha risentito della crisi. Come dire, un pezzo importante a figlia dell'acciaio, le auto. Ad esempio, quando ci sono stati gli incentivi per la rottamazione, ci sono stati dei picchi in alto. Evidentemente il dopo rottamazione implica, accompagnato anche alla crisi economica, crisi dei consumi, inevitabilmente comporta un calo drastico. Quindi proprio per nel rapporto dell'anno prossimo presumibilmente vedremo un calo in questo sicuramente, settore. Sicuramente ci sarà di nuovo un calo. Senta, invece guardando ad altri settori, chi negli anni ha mantenuto un certo trend diciamo uniforme, non con picchi così alti come abbiamo segnalato questo dell'acciaio? Ma la carta ad esempio è uno dei settori più, tra virgolette, sempre più stabile, ecco, da questo punto di vista. C'è sempre, diciamo così, che l'esportazione compensa, o perlomeno fino adesso ha compensato in buonissima parte la crisi di domanda italiana e europea. Ecco. Avete sentito bene, l'Italia negli anni, grazie alla raccolta della carta a cui tutti siamo invitati a partecipare, è passata da importatrice a esportatrice di carta. Dice Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che ha partecipato, come dicevamo in apertura, alla stesura del rapporto. Dice Ronchi che potremmo fare così quasi in ogni comparto. La nostra industria del riciclo importa infatti materiali da riciclare, noi siamo importatori di materiali da riciclare, esportiamo solo carta e un pochino di plastica, ma per il resto importiamo per circa 2 milioni e mezzo di tonnellate. Se fossimo migliori raccoglitori sul mercato nazionale all'interno, non avremmo bisogno di importare. Forse i rottami no, ma tutto il resto potremmo largamente essere autosufficienti ed essere esportatori. Ma perché la filiera è ancora carente? Perché non arriviamo all'eccellenza? Corrado Scapino, Unire. Se mi permette faccio un quadro brevissimo ma che rende un po' l'idea. Noi abbiamo alcuni problemi, diciamo così, geografici, cioè abbiamo alcune aree, mi riferisco soprattutto alle raccolte differenziate, tipo ad esempio nel sud d'Italia, dove ci sono stati degli incrementi, ma sono ancora, diciamo così, a livelli più bassi del resto d'Italia, e questo è un problema che va recuperato, e su questo l'impegno sia pubblico sia delle filiere del CONAE e dei recuperatori, anche se ha mostrato segni positivi, evidentemente bisogna ancora fare di più. Poi ci sono altri problemi che sono legati agli andamenti industriali, e questi ovviamente ognuno ha il suo, come dire, alla sua caratteristica. Faccio un esempio: il vetro non lo esportiamo, lo importiamo, la carta la esportiamo, quindi in alcuni casi le possibilità di sbocco sono maggiori e quindi i contraccolpi si attutiscono. Poi ci sono altri settori che sono importanti, dove invece l'Italia è ancora indietro rispetto ovviamente ai paesi europei più avanzati. Le cito due esempi: le macerie, le cosiddette macerie da un lato, che sono una fetta molto importante nei rifiuti recuperabili, e i pneumatici. L'Italia sul riciclo è indietro. Sui pneumatici adesso è partito Ecopneus, il consorzio, quindi speriamo che nei prossimi anni si recuperi e l'Italia raggiunga dei livelli di quota di riciclaggio paragonabili a quelli europei. Per riciclaggio intendo ad esempio nei campi sportivi, nell'utilizzo per l'erba sintetica, come sottofondo stradale in alcuni tratti particolarmente delicati, in materiali da riutilizzare in generale nella segnaletica stradale, nell'antinfortunistica, eccetera. Quindi teniamo presente i problemi pneumatici e inerti da costruzione e demolizione. Per i primi è partito il consorzio che lavora, e siamo testimoni del fatto che lo fa, per cambiare le cose. Per i secondi invece siamo ancora indietro, sia per contabilità che monitoraggio dei rifiuti. Edo Ronchi, Fondazione Sviluppo Sostenibile. Benché abbiamo un obiettivo del 75% di avviato riutilizzo e al riciclo, noi stimiamo che siamo intorno al 10%. I motivi sono diversi. Le stesse previsioni normative sugli appalti, che dovrebbero privilegiare l'utilizzo del materiale riciclati, vengono poco applicate, mancano alcune integrazioni di norme tecniche per l'utilizzo di questi materiali, le piattaforme per il riciclo sono ancora poco diffuse, e anche a volte servirebbe anche una qualche incentivazione o comunque una garanzia di impiego di questi materiali. Qualche incertezza permane, ma in fase di aggiustamento, dice Ronchi, anche per la raccolta delle batterie esauste, perché il sistema è stato riformato ed è in via di assestamento e i dati sono ancora da consolidare. In generale però possiamo dire che l'Italia è brava a riciclare. Eppure abbiamo una pessima fama nel mondo quando si parla di rifiuti. Perché? Quello delle raccolte è un problema diverso, differenziate di rifiuti urbani. Qui stiamo parlando di riciclo, e quindi nel riciclo c'entrano i rifiuti urbani ma anche i rifiuti speciali industriali. Nel settore del riciclo siamo direi mediamente abbastanza ben collocati in Europa. Nelle raccolte differenziate, che riguardano solo i rifiuti urbani, siamo ben collocati in Europa a livelli europei, nel nord Italia, così nel centro e ancora molto arretrati in alcune regioni meridionali e in alcune province meridionali, perché per esempio in Campania la provincia di Salerno e la provincia di Avellino ormai sono a livelli ottimi. Non confondiamo però il riciclo, che è un'industria di riciclo dei materiali, con le arretratezze nelle raccolte differenziate dei rifiuti urbani. Non distinguendo tra raccolta, magari malfatta, e materiale riciclato, si fanno anche scelte sbagliate. E cioè, l'abbiamo detto anche in questa trasmissione più volte, si finisce con il prediligere negli appalti pubblici o nella vita quotidiana prodotti realizzati con materiale vergine, più costoso per le tasche e per l'ambiente. Sentiamo Scapino. Ma è proprio questo il punto. Allora, beh, dividiamo il problema almeno in tre grandi questioni. Allora, c'è chi agisce fuori legge e su questo c'è soltanto controllo e repressione, non ci sono altre. Ci sono altri casi in cui alcuni reati in realtà sono perché le leggi sono molto faraginose, la definizione di rifiuto non è certa, e questa è un'area invece che, su cui la semplificazione, che costa niente, potrebbe aiutare proprio per distinguere, come dire, il grano dall'olio. Ma c'è una terza cosa che è la più importante. Se noi riusciamo a dare valore al recupero, la filiera si controlla da sé. Cioè, voglio dire, se è conveniente utilizzarlo, nessuno, voglio dire, a meno che non abbia proprio altri tipi di problemi, ha interesse a prendere dei rifiuti e smaltirli irregolarmente. Quindi più noi riusciamo a chiudere la filiera, cioè a fare in modo che quello che si raccoglie ha un suo mercato, a quel punto non c'è manco bisogno del controllo, nel senso che diventa un bene. E avviandoci verso la conclusione di questa puntata, riprendiamo il tema della scorsa settimana, ovvero quello dei RAE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In generale è aumentata tutta la raccolta di questo tipo di rifiuti, che segna un incremento del 30% rispetto al 2009. E questo di fronte a un immesso al consumo che non ha subito un grande incremento, più 1%. Il rapporto Unire Fondazione per lo Sviluppo sottolinea due problemi rilevanti al momento del ritiro presso i centri di raccolta gestiti dai comuni: il mancato raggiungimento della soglia di saturazione e il danneggiamento dei RAE dovuto a una movimentazione con strumenti non idonei. Abbiamo chiesto di spiegarci di che problemi si tratta a Giuliano Maddalena, che è General Manager del consorzio di recupero RAE Ecoped. Il mancato raggiungimento della soglia di saturazione è un problema legato all'ottimizzazione dei carichi. Le immagini un mezzo pesante che si muove con 10 frigoriferi invece che con 30 frigoriferi, una tonnellata a bordo invece che 2,5 tonnellate. L'altro problema è il danneggiamento dei RAE dovuto a una movimentazione con strumenti non idonei. Ci sono alcune piazzole che ancora oggi muovono i rifiuti elettrici all'interno della piazzola attraverso dei ragni, ad esempio, no? Quindi questi ragni schiacciano il rifiuto e in alcuni casi, sto pensando qualora una piazzola, il gestore di una piazzola muova dei televisori con i ragni, si generano dei danni a questi rifiuti elettrici che possono determinare dispersioni in ambiente. L'altro problema segnalato è la cannibalizzazione dei RAE. La cannibalizzazione è un problema economico, nel senso che ci sono delle risorse che hanno comunque un valore che non vengono gestite opportunamente e danno origine a mercati neri e ad altre, a esportazioni illegali, ma è in primo luogo un problema di tipo ambientale, perché se lei ha un frigorifero che contiene il suo gas all'interno della sua pompa, che è in ferro, che contiene ferro e contiene rame, contiene metalli, a questo frigorifero gli toglie il motore, è chiaro che nell'atto di estrazione del motore, che è fatto tipicamente con una cesoia, no, con una tenaglia per tagliare i tubicini, lei perde tutto il gas. Come garantire la filiera? Il consorzio Ecoped lo scorso anno aveva avviato il progetto EcoGuard per ottenere il massimo recupero delle materie prime, garantendo la tracciabilità dei rifiuti e il rispetto dell'ambiente lungo tutta la filiera di lavorazione del rifiuto. Un progetto sviluppato e ora in opera in collaborazione con TÜV, ente indipendente di certificazione ed ispezione. Ancora Maddalena. I produttori del rifiuto, cioè coloro che detengono il rifiuto, affidano il rifiuto a un soggetto, cioè un'impresa autorizzata. Dopodiché, per effetto della consegna della quarta copia del formulario, la cosiddetta quarta copia del formulario, che è una bolla, ne perdono completamente traccia. Il sistema EcoGuard che Ecoped e Ridomus hanno messo a punto dice: io sorveglio il trasportatore, verifico quali sono le sue autorizzazioni, verifico come lavora, la sua qualità, ad esempio verifico che almeno metà dei trasporti sia fatto con motori Euro 5 per inquinare poco l'ambiente. Dopodiché sorveglio dove questo materiale è arrivato e arriva dove voglio io, non lascio scegliere al trasportatore dove portare questo materiale. E quindi questa fase si chiama stoccaggio intermedio. Noi cerchiamo di non usarla, ma ahimè ogni tanto bisogna usarla perché i rifiuti sono un po' decentrati in tutta Italia. Da questo stoccaggio, a cui noi diamo determinati obblighi, e vincoli, ad esempio la videosorveglianza. Perché non siano cannibalizzati, per esempio. Esattamente, bravissima. Quindi, dopodiché gli stoccaggi sono tenuti a portare i loro rifiuti presso alcuni impianti da noi individuati. Che cosa avviene in questi impianti? I rifiuti elettrici vengono smembrati, tolte le parti pericolose e le parti invece da riciclare vengono avviate effettivamente a recupero. E quindi Ecoped, attraverso Ecoguard, segue la fase successiva, il cosiddetto pezzo che mancava, l'ultimo pezzo, cioè siamo andati attraverso i nostri audit a verificare che effettivamente le plastiche vengano inviate a recupero, oppure che le schede elettroniche vengono inviate a recupero, cioè a riciclo, e vengano inviate a riciclo presso impianti da noi selezionati. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, come sempre ospitiamo con piacere l'intervista di Cristina Carpinelli. Questa settimana parliamo di Sardegna e di un volume, bello ma drammatico, appena pubblicato sui mali dell'isola. Carlo Pocedda, lei insieme a Maddalena Brunetti ha scritto un libro che è stato edito da Verde Nero dal titolo Lo sa il vento, il male invisibile della Sardegna. Ovviamente la domanda di rito per aprire questa intervista è: qual è questo male invisibile della Sardegna? Il male invisibile della Sardegna sono sicuramente gli inquinanti che potremmo chiamare di nuova generazione, e cioè quelli che vengono generati all'interno dei poligoni militari, di cui la Sardegna ha un gran numero, il 60% del demanio militare italiano grava sulla Sardegna. Il male invisibile sono gli inquinanti di una serie di impianti industriali ad altissimo impatto ambientale e sanitario che sono stati costruiti in Sardegna a partire dagli anni 60, parliamo del polo petrolchimico di San Rocco, parliamo del polo industriale di Portovesme, di Porto Torres, parliamo del vecchio polo industriale di Ottana all'interno della Sardegna. A fronte di questo non c'è mai stato, diciamo, un controllo sanitario e ambientale che fosse adeguato all'impatto ambientale che queste realtà generano. I controlli sono sempre stati fatti quando veniva fuori o quando veniva denunciato un qualche problema. Il male invisibile della Sardegna è anche l'isolamento che la Sardegna soffre dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto che poi hanno queste denunce. Che poi è anche il paradosso della Sardegna, c'è un isolamento che permette a certe zone della Sardegna di essere ancora invece incontaminate e allo stesso tempo invece la condanna a subire e a soffrire degli impatti ambientali fortissimi, senza che questo però, anche quando vengono denunciati, senza che questo, come dicevo, riesca a raggiungere l'opinione pubblica. E quello che poi lei esprime in uno dei capitoli del libro dal titolo Paradiso e Paradossi, una cosa che mi ha colpito leggendo l'inchiesta, il libro inchiesta che ha scritto assieme a Maddalena Brunetti, è la voce delle persone, come arriva sulla carta. Diciamo che sicuramente se adesso qualcuno riuscirà a dimostrare che c'è stato un inquinamento che ha avuto un impatto fortissimo sulle popolazioni e sull'ambiente, ci sarà un po' di giustizia. Se qualcuno però riuscisse a dimostrare che un poligono sperimentale, per esempio attivo da 50 anni, non inquina, c'è una realtà che non cambia, e cioè che c'è stato un esperimento, perché nessuno sapeva cosa poteva succedere. perché nessuno ha controllato quello che stava succedendo. Paradossalmente, se qualcuno dimostrasse che per noi praticamente impossibile, per quello che abbiamo raccolto, dimostrasse che queste cose non avessero impatto ambientale o sanitario, la realtà è che per 50 anni non ci sono stati però i presidi scientifici, sanitari e ambientali che potessero, come dire, monitorare questa cosa qua. Ora, la realtà invece racconta altro, racconta di pastori che fanno una vita sanissima e che però si ammalano di leucemie e tumori al sistema emolinfatico, esattamente come molti dei nostri soldati che hanno partecipato a missioni all'estero dove sono state usate armi di nuova generazione, all'uranio impoverito, all'estero è sicuro, in Sardegna non è ancora dimostrato. Hanno la stessa macchia di questi soldati. Allora il dubbio viene perché non è stata data una risposta, perché le indagini sanitarie sono sempre state parziali, perché questa zona della Sardegna, per esempio il sud della Sardegna, che annovera i due poligoni più grandi d'Europa, che possiamo considerare il fronte interno più grande d'Europa, il più grande polo petrolchimico del Mediterraneo, o un polo industriale come quello di Porto Scusa e Porto Vesme ad altissimo impatto ambientale, non abbia ad oggi un registro tumori. E allora ci si chiede da dove arrivano i dati delle indagini epidemiologiche che sinora hanno rassicurato. Perché oggi si dice che la regione e l'Istituto Superiore di Sanità farà delle indagini epidemiologiche serie? Quindi vuol dire che serie quelle fatte sinora non sono state, il ragionamento è semplicemente deduttivo. Le persone, mi chiedeva lei, dar voce alle persone è stato come dar voce ad alcuni documenti, come dar voce ad alcune realtà. Ci sono delle persone che da decenni combattono una quotidiana battaglia di resistenza e di denuncia contro questi fenomeni, sono persone che hanno gravissimi lutti in famiglia, sono persone che hanno affrontato con coraggio e molta, molta dignità, devo dire, delle situazioni di sofferenza gravissime. E con Marco Carminati invece torna la nostra rubrica Articolo 9. Articolo 9 come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati. Oggi abbiamo in collegamento con noi Sebastiano Venneri, che è il vicepresidente di Legambiente. Buongiorno presidente. Buongiorno, ben trovato. Voi di Legambiente avete avuto un'idea davvero di alta civiltà, un'idea che è anche toccante per certi aspetti. Avete lanciato un appello dicendo: andiamo a fare le vacanze di Natale nelle zone delle Cinque Terre colpite dall'alluvione. Così daremo una mano a questa realtà a riprendersi sostanzialmente da questo terribile colpo. Ecco, mi spieghi un momento intanto com'è la situazione. Voi di Legambiente siete sempre molto informati sulla situazione del territorio. Ecco, cosa sta accadendo adesso lì da quelle parti? Sì, noi diciamo invitiamo a fare le vacanze alle Cinque Terre, ma anche in Val di Vara e anche in Lunigiana, sì. Sono tre aree contigue che sono state interessate dai grossi eventi alluvionali dei mesi scorsi. Lì la situazione ovviamente sta tornando attualmente alla normalità in tante di questi dei paesini di queste aree, anzi non sono stati minimamente interessati dagli eventi alluvionali in maniera drammatica, per cui possono ospitare tranquillamente i turisti come fanno ogni anno. Peraltro segnalo che sono dei borghi fantastici, sia quelli delle Cinque Terre che quelli della Val di Vara che quelli della Lunigiana, che secondo me d'inverno e nel Natale in particolare presentano la loro faccia migliore, le loro atmosfere più tipiche, più belle, per cui è un momento utile, bello per andare a visitarli. Ecco, quindi andando lì nelle nostre vacanze di Natale, non solo ci godremmo un'Italia meravigliosa, intatta, tra l'altro quasi simile a un presepe, perché immagino alla sera questi piccoli borghi sulle colline illuminati, ma diamo una mano anche concreta a riprendere l'economia di questa zona. Ecco, concretamente, dottor Venneri, che cosa dobbiamo fare per aderire a questa iniziativa? Ma noi abbiamo preparato, come Legambiente, in collaborazione con Vivi l'Italia, sì, dei pacchetti turistici che possono essere acquistati da chi ne fa richiesta. Basta andare sul sito vivilitalia.it oppure sul sito di Legambiente, che rimanda all'iniziativa, e scegliere dove andare a passare le proprie vacanze. È un modo concreto, tangibile, per portare economia in delle zone che hanno sofferto nei mesi scorsi, per passare delle vacanze indimenticabili, perché sono veramente posti fantastici, con i mercatini di Natale, con i presepi, ci sarà il presepe di Manarola che verrà allestito già a partire dal prossimo fine settimana, dall'8 dicembre, il 50° anniversario di questo presepe realizzato con materiali di riciclo sulla cina di Manarola, una cosa bellissima e fantastica. E poi naturalmente, oltre a portare questa economia in queste zone, una parte, una percentuale del ricavato andrà devoluto a un fondo per la ricostruzione di queste aree. Ecco, questo è molto importante, che una parte del ricavato andrà appunto alla ricostruzione, sarà destinato alla ricostruzione. Insomma, è veramente un appello accorato che lei fa, ma io credo che ci saranno molti lettori che seguiranno questo consiglio, anche perché il luogo è accessibile da tutta Italia, è ricco di valori ambientali, anche di valori artistici. La Spezia tra l'altro ha un museo bellissimo, il Museo Medeoli, un piccolo Louvre della Liguria, come è stato definito. Quindi ci sono tanti tanti motivi per poter aderire a questa vostra iniziativa, all'iniziativa di Legambiente. Dottor Venneri, io la ringrazio molto della sua presenza e del suo appello. Grazie a voi. Ecco, auguro a tutti di appunto aderire in qualche modo a questa civilissima iniziativa, e agli ascoltatori do l'appuntamento per sabato prossimo. Grazie. E ovviamente prudenza in questi giorni con le Cinque Terre, ci sono nuovi allarmi meteo che riguardano proprio quest'area, che resta comunque da visitare anche per aiutare le popolazioni di questa zona a risollevarsi da quello che hanno vissuto. Da Laura Bettini un grazie per l'ascolto, vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it, appuntamento la prossima settimana alla stessa ora.